Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Elezioni USA, tegole sui figli dei due candidati. In Nigeria la situazione è esplosiva. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Security forces open fire at crowds in Lagos, and there are reports several people have been killed. Our demand is to eradicate SARS and stop them. We don't need them. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. 16:09 minuti 0 secondi in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano per raccontarvi due dossier particolarmente caldi. Il primo, che ha a che fare con le elezioni statunitensi, l'appuntamento è il 3 novembre, ma quello più ravvicinato è l'ultimo dibattito televisivo che avverrà nelle prossime ore. E in tutto ciò si affacciano problemini, direbbe qualcuno, per due figli dei candidati, Hunter Biden e Ivanka Trump. Motivi diversi, dossier diversamente utilizzabili dalla controparte in chiave chiaramente elettorale e politica. Faremo il punto su questo, ma poi sarà gioco forza a tornare ad Abuja e a Lagos e tante altre città nigeriane, dove quell'inizio di protesta End SARS Now, che sembrava richiamare chissà quale pandemia, in realtà aveva a che fare con ben altra e violenta espressione, quella di un'unità d'élite, presunta elite, delle forze speciali nigeriane. E i cittadini, i nigeriani, volevano il dissolvimento di quella unità d'élite, è accaduto, ma hanno continuato a protestare. Gli hashtag si stanno continuamente aumentando, si chiedono le dimissioni del presidente Buhari, si chiede lo stop alla fine della corruzione. Sembra che la polveriera Nigeria sia sul punto di esplodere. Questi temi di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo le coordinate: 349-238-6666, Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E naturalmente anche quest'oggi con me c'è tutta la squadra: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In regia c'è Valeria Bernardi, che mi aiuta a sfogliare i nostri dossier. Torniamo nel Mediterraneo orientale, perché secondo fonti greche, corazzati di Atene hanno circondato Castello Rizzo, l'isola al centro della disputa territoriale con Ankara. Siamo a pochissimi chilometri dalla costa turca. L'idea è quella di proteggere il territorio greco dai tentativi della Turchia, sempre più provocatori, costanti ormai negli ultimi mesi, alla ricerca di potenziali giacimenti di gas. Ricorderete, la missione di ricognizione della Oruç Reis era ricominciata dopo essere stata interrotta proprio la settimana scorsa. Secondo marinetraffic.com, che sostanzialmente tiene traccia di quelli che sono gli spostamenti appunto nelle acque mondiali, l'Oruç Reis si trova a 35 miglia nautiche da Castello Rizzo, mentre mercoledì la Turchia ha esteso la missione di esplorazione al 27 ottobre. Si sta cercando di allentare evidentemente quello che è un braccio di ferro che dura oramai da parecchio tempo. Ci sta provando la Germania, ci stanno provando i membri della NATO, perché la Turchia e la Grecia sono entrambi membri della NATO, ed è incredibile assistere a queste prove di forza nel Mediterraneo in seno alla stessa coalizione. I negoziati però tra Atene ed Ankara devono ancora iniziare. Ankara ha tenuto un atteggiamento, per così dire, su due binari. Da un lato sposta le navi, compie una serie di provocazioni anche con i propri jet, dall'altro lancia messaggi molto molto ambigui. Da un lato sembra chiudere le porte al dialogo, dall'altro, appena vede che si riunisce un Consiglio europeo, prova a riaprire le porte. Staremo a vedere nelle prossime ore. Non c'è dubbio che questo è un dossier in evoluzione rapidissima. Così come rapido, ma anche inaspettato, anche i politologi e gli analisti che seguono il Libano da tanto tempo non si aspettavano che il primo ministro, che era uscito dalla porta, rientrasse dalla finestra. Cos'è accaduto? Che il presidente libanese Michel Aoun ha dato l'incarico ancora a Saad Hariri di formare un nuovo governo per affrontare quella che è la peggior crisi del paese degli ultimi decenni. Vi ricorderete le proteste di piazza contro la corruzione, ricorderete l'esplosione al porto, i vari incendi durante la città e ovviamente in tutto ciò la crisi economica e la pandemia. E staremo a vedere, perché Hariri si era dimesso il 29 ottobre dell'anno scorso, sono passati 12 mesi, la situazione del Libano è peggiorata, ci si è messo il governo francese, come dire, a mettere pressione anche sulla politica libanese, ma senza esiti particolari, perché ricorderete che i precedenti tentativi di formare un governo, nonostante l'ultimatum di Macron aveva dato 15 giorni, erano miseramente falliti. Anche di questo torneremo a parlare. E infine prosegue il lavoro diplomatico tra Italia e Libia. In particolare c'è stato un incontro ieri alla Farnesina tra il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il ministro dell'interno del governo di accordo nazionale libico, il potente Fathi Bashagha. Sono stati approfonditi gli ultimi sviluppi sulla situazione in Libia. È stato rinsaldato, secondo le parole di Di Maio, il convinto e pieno sostegno dell'Italia al processo di dialogo intralibico, che lo ricordiamo è sotto l'egida delle Nazioni Unite, la missione in particolare un SMIL. Sono stati toccati anche i principali temi, come evidentemente immaginerete, quello della migrazione, e se non erro Serraj dovrebbe essere proprio domani a Roma per ulteriori incontri, e naturalmente di questo vi daremo conto. E infine è arrivata un'altra, l'ennesima cattiva notizia per la lunga odissea giudiziaria di Patrick Zaki. È arrivata ieri pomeriggio, giudici del Cairo hanno respinto il ricorso, l'ennesimo ricorso presentato dai legali dello studente, lo ricorderete, ricercatore, 28enne, stava studiando anche in Italia, rientrato nel suo villaggio natale, è stato arrestato. L'accusa è incitamento alla protesta, istigazione alla violenza, tutti i reati che potrebbero implicare una condanna, pensate, fino a 25 anni di carcere. Nel mirino alcuni post Facebook che erano stati pubblicati dal giovane. Continua questa odissea, noi continueremo nel nostro piccolo a cercare di tenere accesi i riflettori su un regime, quello egiziano, che oramai sembra aver messo da parte ogni rispetto dei diritti umani. Questi nostri i nostri dossier internazionali, una volta lo chiamavamo termometro, poi in realtà il lessico forse non era particolarmente piacevole in tempi di Covid-19, allora abbiamo preferito chiamarli dossier. Questi sono fatti, notizie dai quattro angoli del globo che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Adesso, con l'aiuto di Valeria Bernardi e Valentina Ternullo, andiamo negli Stati Uniti, e anche il titolo di questa copertina è particolarmente irriverente, a pensarci bene. Comunque, i figli di... A poche settimane dal voto statunitense, i due candidati Joe Biden e Donald Trump devono fare i conti con alcune spinose questioni di famiglia. The next front on impeachment, a new battle over the witness list. Mr. President, should Hunter Biden Dopo l'avvio della procedura di impeachment per la richiesta inoltrata al suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky di effettuare indagini su Hunter Biden e i suoi, a detta del presidente, poco chiari affari in Ucraina, Trump torna all'attacco sul figlio del suo rivale. We've just learned through explosive documents published by a very fine newspaper, the New York Post, that Joe Biden has been blatantly lying about his involvement in his son's corrupt business dealings. Il presidente avrebbe chiesto al procuratore generale William Barr di aprire un'inchiesta su Hunter a seguito della visione di alcune mail compromettenti che prefigurerebbero affari poco chiari con alcuni uomini d'affari stranieri all'epoca in cui Joe Biden era il vice di Barack Obama. Attorney General Barr, perhaps they've suggested. I don't know. I wouldn't say suggest. Hinted? I don't know. Inferred? You don't know. Okay. Ma anche Trump ha i suoi panni sporchi da lavare in famiglia. Considerata la sua posizione anticinese, fa discutere la crescita del business della figlia Ivanka proprio in Cina. Ivanka, che solo pochi anni fa faceva intonare una canzone in mandarino alla figlia Arabella in occasione di una festa all'ambasciata cinese, ha sempre intrattenuto proficue relazioni commerciali con il paese del Dragone Rosso. Ad oggi i suoi marchi in Cina sarebbero 32 e spazierebbero dal settore dell'editoria a quello dell'abbigliamento. I guai che stanno passando, di diversa natura evidentemente, due figli dei due diversi candidati, da un lato Ivanka Trump, dall'altro Hunter Biden, quanto queste tegole un po' giornalistiche, un po' giudiziarie, un po' di opportunità, mettiamola così, a seconda di quanto verranno poi svelati dettagli nei prossimi giorni, potranno pesare non soltanto sul dibattito televisivo di questa notte, ma anche sull'esito, sulla campagna, su ciò che resta della campagna elettorale. Andiamo allora subito a New York, lo facciamo con la voce e l'analisi di Riccardo Barlam, corrispondente Sole 24 Ore appunto da New York. Riccardo, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Guarda, allora, è una domanda, mi rendo conto, è un po' difficile, perché qua stiamo parlando di un grado di separazione che è minimo, parliamo dei figli, però sono stati tirati in ballo in maniera diversa su dossier diversi. Quanto pesano secondo te i dossier, diciamo, li abbiamo sentiti riassunti nella copertina di Valeria Bernardi e Valentina Ternullo? Ma pesano per accentuare, diciamo, la divisione tra gli elettori americani. Quando è uscita questa storia qualche giorno fa del computer rotto di Hunter Biden, che è stato recuperato dall'FBI, e poi insomma dove sono uscite queste mail in cui lui si metteva d'accordo col padre per incontrare i vertici di questa società ucraina, cosa che il padre ha sempre negato quando era vicepresidente di Obama, e alcuni amici che sono repubblicani, i sostenitori repubblicani, quella sera mi ha chiamato per dire: hai visto il New York Post? Questa è la notizia. E la stessa cosa sta succedendo in queste ore con le notizie che arrivano appunto da questa inchiesta, il seguito di questa inchiesta del New York Times sulle dichiarazioni dei redditi di Trump. Vi ricordate, qualche giorno fa se ne era parlato. Aspetta Riccardo, che speravamo che la linea si curasse da sola, si mettesse a posto. Il collegamento non è perfetto. Proviamo a richiamarti, perché è interessante quello che stavi giustamente ricapitolando, peraltro anche su sollecitazione di alcuni ascoltatori. Al 349-238-6666 in passato qualcuno ci accusava di non parlare abbastanza di questa vicenda e di aver derubricato il dossier Hunter Biden, siccome proveniente dal New York Post, che noi abbiamo bollato non esattamente come un fulgido baluardo del giornalismo mondiale, appunto di in qualche modo censurare quella vicenda. Assolutamente, torneremo naturalmente a parlarne. Così vengo ai vostri messaggi mentre ripristiniamo il collegamento con New York, e ne approfitto anche perché è simpatica questa cosa. C'è un paio di ascoltatori che continuano a chiamarmi Matteo, ma non sono Matteo Caccia, e questo voglio assicurare. Abbiamo una voce molto simile, i temi sono diversi, così fugo ogni dubbio dal campo, così come immagino è la linea adesso, fughi ogni dubbio sul fatto che si sente bene la voce di Riccardo Barlam. Eccoci Riccardo. Eccoci a noi, speriamo che molto meglio. A raccontarvi questa cosa. Insomma, dicevo di questa inchiesta sulle dichiarazioni di redditi, 10 anni di dichiarazioni di redditi di Trump, che lui non ha mai reso pubbliche. E vi ricordate, era uscita la scorsa settimana la storia che lui per anni non ha pagato le imposte, grazie a tante dichiarazioni in cui dichiarava più perdite di quello che guadagnava, e addirittura nei primi due anni di presidenza ha pagato $750 di tasse. Diciamo, questa cosa ha creato un pochino di scandalo, perché sì, gli immigrati regolari pagano più di lui, quelli che fanno i camerieri, che lavano le pentole nei ristoranti. Andando avanti con questa inchiesta, il Times ha tirato fuori questi rapporti con la Cina, che Trump da un lato, come appunto ricordava la scheda iniziale, ha fatto della Cina il nemico in questi anni, la guerra commerciale e poi tutto il boicottaggio delle aziende cinesi come Huawei, ha fatto una pressione su tutti gli alleati per non far comprare le attrezzature, le infrastrutture di rete di Huawei, che sono le più avanzate, quelle che costano meno, e oppure se pensate a tutta la campagna contro gli studenti cinesi, gli arresti di ricercatori per spionaggio mai trovati, insomma tutta questa questione. Però viene fuori che lui in realtà con la Cina ha cercato di fare affari dal 2006, perché la sua società immobiliare ha cercato senza successo di avere licenze edilizie, di costruire una Trump Tower a Guangzhou nel 2008, e addirittura Trump ha pagato le tasse per due anni, negli anni in cui negli Stati Uniti non dichiarava zero, diciamo imponibile, ha pagato qualcosa come $190.000 di tasse in Cina. Questa cosa è abbastanza se vogliamo, ridicola, e comunque mette in tutt'altra luce questa campagna contro la Cina. Ricordiamo anche negli ultimi mesi con il coronavirus, la Cina è il nemico, la Cina è il virus cinese e tutta questa cosa qui. Viene fuori anche questa storia sulla figlia di Trump, che appunto durante una, ci sarebbe stato, come si dice in Italia, tutto il mondo e paese, durante una cena con il presidente Xi Jinping, Trump avrebbe chiesto al presidente cinese un aiuto per avere appunto le licenze operare in questa società che ha la figlia di Trump, mentre lei era consigliere della Casa Bianca, ha una società di abbigliamento e di accessori per la moda, che peraltro è caduta in disgrazia in questi ultimi mesi. E insomma, lei ha ottenuto le licenze a operare con il suo brand in Cina e anche in Giappone durante una visita col vicepresidente Mike Pence. Quindi c'è proprio, qualcuno parla di violazione di questa legge che si chiama Hatch Act, che evita, che impedisce a persone che hanno funzioni pubbliche di avere, come dire, interessi personali. Sì. E viene fuori tutta questa storia qua. Riccardo, chiarissimo, e questo è l'aspetto, diciamo, di Trump. Adesso però, per non sembrare coloro che sono i censori del presunto scoop del New York Post, Pietro chiede: ma della censura sul New York Post di Twitter ne parliamo? Un altro l'ascoltatore scrive: la vicenda di Hunter Biden è stata dismissed, usa l'inglese, come integralmente fake storia da tutti i giornali e i media statunitensi. Prova a regalarci l'ultima parola, Riccardo, su questa vicenda e sul New York Post. È la stessa vicenda dall'altro punto di vista, diciamo, è la stessa vicenda dall'altro punto di vista, perché le accuse appunto che fanno i repubblicani a Biden, che quando lui andava a fare, lui era, diciamo, la persona che faceva le missioni diplomatiche per Obama, quindi è stato così in Ucraina, è stato così in Cina, e il figlio era subito dopo un passo indietro, dietro pronto a dare il bigliettino per avere il contratto che poi ha avuto sia con... Mi sa che abbiamo perso Riccardo Barlama, che cercava di tratteggiare quella che sarebbe stata una pratica attuata da entrambe le presidenze, diciamo agevolare, direbbe qualcuno, il business anche di relativi e di congiunti. Torneremo sulla questione dei figli Hunter e Ivanka, adesso però complice anche una serie di messaggi che arrivano sulla questione nigeriana e dal tenore, anche dal nome, come si firma l'ascoltatore, immagino che sia personalmente coinvolto. Per quanto riguarda la situazione di quello che sta succedendo in Nigeria in questo momento, porterà il paese alla divisione, il paese è molto corrotto. Allora andiamo proprio in Nigeria. It will definitely ask you. You are a disgrace to that uniform, code and conduct. You are a big disgrace. La voce che avete appena sentito è pubblica, la potete scovare su Twitter. Chi stava parlando e parlava di vergogna, e non soltanto, usava anche altre parole molto molto forti, sdegno anche, quasi imbarazzo nel portare questo uniforme. Perché uniforme? Perché a parlare era un soldato nigeriano che parla dal nord-est della Nigeria, la zona attorno a Maiduguri, dove ancora si combatte contro ciò che resta di Boko Haram, formazione terroristica che in passato è riuscita a conquistare un intero stato, quello appunto a nord-est, quello di Maiduguri. Ebbene, e dice: io sono qua che combatto contro i ribelli, i terroristi, gli islamisti, e ci sono dei miei colleghi che sparano sulla folla pacifica che sta manifestando a Lagos, a Abuja, a Benin City e così come in tante altre città nigeriane. Questo è quello che sta accadendo, e lo dicevo all'inizio di questa puntata in Nessun Luogo Lontano, l'hashtag era End SARS Now, cioè sciogliete questo reparto d'élite della polizia nigeriana per le sue brutalità, per le sue violenze. E in questo incredibile cortocircuito, incredibile paradosso, è accaduto che durante manifestazioni pacifiche proprio quella polizia abbia usato la violenza per tentare di disperdere i manifestanti. Le notizie che stanno arrivando peraltro sono estremamente drammatiche, si rincorrono l'un l'altra. Per esempio vedo immagini, fumo uscire da una prigione in un sobborgo di Lagos, riferiscono alcuni testimoni di gente armata di macete, la polizia che sta dando la caccia a presunti fuggitivi proprio da questo carcere. Per dirne un'altra, c'è chi fa troppo evidentemente in piazza e c'è chi dice poco. Il presidente Buhari, che adesso è riunito in un summit di sicurezza, ma non ha parlato fin dall'inizio di queste proteste. Questo evidentemente è di una gravità incredibile. Cosa sta accadendo? Ci sono tante reazioni anche a livello internazionale. Oggi sul New York Times ha scritto Chimamanda Adichie, che è una grandissima scrittrice, metà di un sole giallo, americana, per citare alcuni dei suoi volumi, molto molto influente. Il titolo era: la Nigeria sta uccidendo i suoi cittadini. Nel pezzo la Adichie racconta la storia di un suo cugino che era stato arrestato proprio dalla SARS, da questa squadra speciale, perché guidava una Mercedes. Usavano scuse alcuni membri della polizia nigeriana, magari bastava un tatuaggio, ascoltare musica a tutto volume, e sostanzialmente imponevano un riscatto che doveva essere pagato immediatamente per essere rilasciati, altrimenti, come racconta Chimamanda Adichie, il rischio è di essere portato in uno sgabuzzino, uno scantinato, fargli una foto e magari con una arma posticcia, e poi accusarlo di porto d'armi illegali, per esempio, se non di altre cose molto molto peggiori. Racconta poi la storia di un ventenne a cui è andata molto peggio, che è letteralmente svanito nel nulla perché non aveva i soldi da pagare, il pizzo, direbbe qualcuno, alla polizia nigeriana. Ecco, il quadro delle dice è molto molto fosco, ripercorre le tante repressioni nell'importante paese africano iniziate già dal 2016, anarchia e caos, terrore seminato dalla polizia, fallimento della leadership nigeriana. Questa è la tesi dell'importante, influente pensatrice nigeriana. Però e bisogna andare alla piazza, bisogna andare nelle strade nigeriane. Abbiamo raggiunto un attivista che adesso, per ragioni di sicurezza, non era così nei primi giorni, ma preferisce nascondere la sua identità, e allora per noi è un anonimo attivista nigeriano. Antonio Tella gli ha chiesto dove sta protestando e cosa ha vissuto negli ultimi giorni, e vi facciamo sentire la sua voce. Ho preso parte alle manifestazioni che stanno avvenendo a Ikeja, nello stato di Lagos. I giorni appena trascorsi sono stati un incubo. Anche se qui la situazione è più sicura, ieri ho avuto seri problemi, dato che la maggior parte delle proteste sono iniziate dopo la dichiarazione del coprifuoco. Il coprifuoco ha spinto molte persone a creare barricate nella strada principale, e tutte le volte che la polizia o l'esercito cercano di passare, scoppiano degli scontri. Grazie al cielo, per ora, almeno qui nessuno è rimasto ferito gravemente o ucciso. Ma ci sono diversi edifici e proprietà governative che sono state attaccate e danneggiate. I caselli del posto di blocco sono stati distrutti assieme a tutta l'illuminazione pubblica. Gli uffici della televisione sono stati danneggiati e la stazione della polizia è stata attaccata. Ora la situazione a Ikeja si è relativamente calmata e siamo riusciti a intavolare un dialogo con i militari mandati qui a controllare la situazione. Per fortuna nessuno è morto negli scontri. Cosa invece che non è accaduta in altre città nigeriane? Le informazioni si rincorrono, non sempre verificabili. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa lunga pagina di Nessun Luogo Lontano stiamo raccontandovi quello che sta accadendo in Nigeria. La protesta si sta estendendo alle principali, maggiori città nigeriane. Era partita per porre fine alla brutalità di una speciale squadra d'élite della polizia, ma oramai gli slogan sono contro la corruzione, sono contro il presidente Buhari, viene chiesta le sue dimissioni, sono contro la povertà, la mancanza di lavoro. Un ascoltatore prima mi sollecitava a mostrare e a dimostrare anche a egli stesso motivi di interesse. Perché parlare di Nigeria? Proviamo a sintetizzarlo, come al solito, in 90 secondi. Con circa 207 milioni di abitanti, la Nigeria è il paese più popoloso d'Africa. E con un tasso di crescita pari al 3,2%, la popolazione del paese è destinata a raddoppiare entro il 2050. Le abbondanti risorse naturali, in primis il petrolio, combinate con gli sforzi imprenditoriali della sua giovane popolazione, hanno portato la Nigeria a rappresentare la più importante economia del continente, con un PIL nominale pari a 443 miliardi di dollari, di cui il 40% è derivato dal settore degli idrocarburi. Ciò nonostante, il paese registra un tasso di disoccupazione del 27%, che sale al 30,7% se si considera la fascia tra i 25 e i 34 anni, valori triplicati negli ultimi 5 anni. A causa degli effetti della pandemia da coronavirus e della dipendenza da un settore in crisi come quello petrolifero, la Banca Mondiale prevede che la situazione economica del paese sia destinata alla peggiore recessione degli ultimi 40 anni. La Nigeria ha infatti superato l'India come paese con il maggior numero di persone in condizioni di estrema povertà. E il National Bureau of Statistics ha affermato che il 40% della popolazione nigeriana, pari a 82,9 milioni di persone, vive sotto la soglia di povertà dei $381,75 all'anno. Non solo sfide economiche. La Nigeria occupa la 146esima posizione su 180 paesi nell'indice di percezione della corruzione e fronteggia enormi problemi legati alla sicurezza. Il tutto si inserisce in una realtà estremamente complessa, data la varietà culturale del paese, che conta più di 250 gruppi etnico-linguistici, e la netta divisione, anche religiosa, con il nord musulmano e il sud cristiano. E per completezza e dovizia di particolari, ricordiamo che anche grossissime aziende italiane come l'Eni investono, lavorano in Nigeria. Ricordiamo che l'export del Made in Italy ha una porta d'accesso al mercato italiano importantissima. E poi ricordiamo sempre, perché dobbiamo parlare di Nigeria, che è una tra le etnie principali quando si tratta di arrivi e di sbarchi sulle nostre coste, oltre che a un giro di traffico, di prostituzione gigantesco di cui sono oggetto proprio le vittime nigeriane. Questo per rispondere a un ascoltatore che prima si chiedeva: ma perché mai dovremmo parlare di Nigeria e perché mai studiarla e fare analisi? Camillo Casola di ISPI, buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano. Ciao, buongiorno Gianpaolo. Allora, ironia a parte, stai seguendo come noi con estrema attenzione ciò che sta accadendo. Stanno chiedendo le dimissioni del presidente Buhari. Secondo te è un momento di non ritorno? Cioè, potrebbe esserci, come qualcuno scrive, una primavera africana? Sicuramente è un momento importante, un momento per molti aspetti inedito rispetto alla storia recente nigeriana. Ricordiamo che la Nigeria è stata in realtà fino a relativamente poco fa uno stato retto da un regime autoritario, che è una democrazia che fatica, diciamo così, a consolidarsi. È una situazione delicata, è un frangente importante per il governo di Muhammadu Buhari, chiedo scusa. A me non sembra che l'approdo diretto di queste proteste possa essere effettivamente una destituzione di Buhari, un cambio di regime o una frattura così profonda da un punto di vista istituzionale. Ecco, a me sembra piuttosto che le istanze dei manifestanti siano molto chiare, riguardino sicuramente una richiesta di giustizia, una richiesta di accountability, quindi di maggiore responsività non soltanto delle forze di polizia ma degli apparati dello Stato in generale, sì. La richiesta di maggiore trasparenza essenzialmente. Una primavera sì, possiamo parlare forse di una primavera alle porte, ma non necessariamente di un cambio di regime, mettiamola così, almeno dal mio punto di vista. Sì, state ascoltando la voce di Camillo Casola, analista di ISPI, esperto di questioni africane. Camillo, tinte fosche quelle che hai tratteggiato, quantomeno tanta penombra. Allora proviamo a raccontarvi, anche attraverso delle immagini ricche di chiaroscuro e la voce di Temiladia Delaja, che è una fotogiornalista che in questo momento si trova a Lagos, l'ha raggiunta la nostra redazione e si è fatta raccontare cosa sta facendo in questo momento, cosa sta fotografando. Eccola la fotografia. Currently I'm in Yaba, somewhere on the mainland in Lagos. I'm currently taking pictures of the aftermath of the damage that was done yesterday. Yesterday there was a clash between some protesters, the hoodlums, and the police. So some buildings were burned, some tires were burned, and Come state sentendo, lei si trova a Yaba, sulla terraferma a Lagos, sta scattando foto dopo le devastazioni verificatesi ieri, scontri, racconta, tra manifestanti e teppisti, criminali che agiscono contro i manifestanti, e in questi scontri è coinvolta anche la polizia, così racconta Temilade Adelaja, raggiunta pochi minuti fa proprio a Lagos, che dice: è sotto un coprifuoco, strade completamente vuote, io sto cercando di uscire per andare a lavorare e raccontare quello che sta accadendo. 349-238-6666 invece per i vostri commenti, ma fatemi tornare da Camillo Casola per un'altra domanda che è fondamentale, perché guardando le città coinvolte sono soprattutto da Abuja in giù, quindi il sud, quindi quello più ricco, quello a maggioranza cristiana, il nord sembra non essere particolarmente toccato, se non la città di Kano, dalle proteste. Potrebbe essere una ghiotta occasione per Boko Haram per riprendere vitalità se la protesta arrivasse anche al nord? Per il momento non sembra così forte, eh? Ma direi, io tenderei a guardare le due dinamiche in maniera abbastanza separata, ecco. Boko Haram, e insieme a Boko Haram ricordiamo anche lo Stato Islamico, la provincia dello Stato Islamico in Africa occidentale, perché sono essenzialmente due se non tre gli attori jihadisti che operano nella regione. Mi sembra che rispetto alle dinamiche di instabilità in questo momento non trovino particolari elementi da cui approfittare. Guardando in un'ottica di medio periodo, è senz'altro vero che la dinamica classica che favorisce anche i processi di reclutamento da parte di queste organizzazioni è rappresentata dalle violenze e dagli abusi degli apparati statali, delle forze armate e della polizia nei confronti delle comunità, delle popolazioni civili. Quindi in questo senso è forse possibile intravedere qualche spiraglio di rischio o comunque di vantaggio potenziale per i gruppi insurrezionali che operano nella regione. Diciamo potenziale opportunità anche su questi gruppi criminali e le organizzazioni terroristiche, eserciti a tutti gli effetti come quello di Boko Haram, quel che resta, possono naturalmente appoggiarsi. Vi faccio sentire ancora la voce di Temilade Adelaja, fotogiornalista di base a Lagos. Sui nostri social troverete anche alcuni degli scatti che sta facendo in questi giorni. A lei abbiamo proprio chiesto qual è lo scatto migliore, quello più iconico, quello che forse si dice un'immagine vale più di mille parole. Ecco, racconta meglio quello che sta accadendo. Sentite. In my own opinion, the most iconic picture I've taken so far since the start of this protest was the picture I took on Tuesday. E ci racconta che la foto più iconica l'ha scattata due giorni fa, martedì, di fronte al palazzo del governo di Lagos. I manifestanti stanno formando una catena umana, si stringono le braccia, bloccano l'entrata del palazzo del governo. Nonostante il fatto che fosse in corso un coprifuoco, erano completamente decisi nell'andare avanti. Lo si vede dalle espressioni della faccia. Hanno formato questa catena umana. È una foto iconica, prosegue la fotografa, secondo me è stato emozionante anche scattarla. È una foto che mostra persone che sono pronte a rischiare qualsiasi cosa per essere sicure che le loro voci saranno ascoltate. Nonostante fossero circondate dalla polizia e dall'esercito, sono rimaste lì a formare la catena umana, e questo mi pare la foto migliore fino adesso scattata. They are like ready to risk everything. Così Temilade Adelaja, fotogiornalista, la redazione sta rilanciando sui nostri social le foto che ci ha inviato proprio Temilade. Tra pochissimo tornerò da Camillo Casola, altre voci che arrivano dalla Nigeria, forse una polveriera sul punto di esplodere. Quello che sta accadendo in Nigeria potrebbe avere anche serie e profonde ripercussioni su tutto il continente, ma anche sulle relazioni con l'Europa. Coglie bene il tutto un messaggio che arriva da Claudio da Verona, che dice, coglie e sottolinea più che altro l'aspetto migratorio, per esempio. Se vogliamo, non dico arrestare, scrive, ma certo ridurre la migrazione dall'Africa, che porta molti a arrivare in Europa, e io sono tra questi, bisogna mostrare attenzione e intervenire con aiuti mirati ma coordinati, in modo tale che arrivino a buon fine, non si perdano nei meandri di organizzazioni che approfittano o nei soliti noti corrotti governanti. Gentile Claudio ha ragione, coglie nel segno una delle proteste anche della società nigeriana, è proprio sulla estrema diffusa corruzione. C'è anche una fiorente letteratura africana che ormai dice attenzione anche agli aiuti di Stato, perché quegli aiuti a pioggia finiscono nelle tasche dei soliti noti, e purtroppo tanti stati nigeriani ci regalano elite corrotte, ricchissime, dove non c'è equa distribuzione della ricchezza e da lì anche, per esempio, e non solo, il fenomeno migratorio. Proviamo a riderci sopra, lo facciamo con le voci di Rudolf Okonkwo, alias Dr. Damages. È un comico molto conosciuto nella diaspora nigeriana negli Stati Uniti, vive a New York. Questo Dr. Damages è sostanzialmente un dottore che fa satira facendo cosa? Beh, facendo diagnosi ai suoi pazienti, ma grazie a questo escamotage narrativo quasi teatrale sostanzialmente va a sottolineare i mali del suo paese d'origine, della Nigeria. Perché quello che sta accadendo è fondamentale, ve lo faccio dire da lui. La Nigeria è il paese più popoloso d'Africa. Nel mondo una persona di colore su sei è nigeriana. Per questo motivo le persone di colore sparse per il mondo guardano alla Nigeria come leader dello sviluppo africano. E la Nigeria ha continuato ad alimentare questo tipo di visione, ispirando i paesi del continente e per estensione coloro che hanno origini africane in giro per il mondo. Non c'è modo per una persona di colore negli Stati Uniti o in Brasile di avere il rispetto che merita se l'Africa nel suo complesso è sottosviluppata. E un paese come la Nigeria ha ovviamente un ruolo importante in questo processo. Abbiamo le risorse per sostenere questo sviluppo e questa emancipazione e per poter dire alle persone di colore in giro per il mondo: noi ci siamo, siamo qui per proteggervi. La Nigeria ha le capacità e l'intelligenza e le risorse per ricoprire questo ruolo, ma sta continuando a fallire in questo. Questa è la feroce però anche lucida diagnosi di un medico, ovviamente per finzione, il dottor Damages, il dottor Danni potremmo tradurre. Lui è Rudolf Okonkwo, volto noto televisivo, diaspora nigeriana, che ci ha parlato da New York. Torna a Camillo Casola, perché abbiamo parlato di personalità molto importanti, questo nell'ambito, diciamo, dell'entertainment, dell'intrattenimento, ma anche Chimamanda Adichie, grandissima scrittrice. Ecco, questi personaggi, ma anche tanti altri nel mondo statunitense, stanno prendendo posizione, però la protesta in Nigeria, a Lagos, ad Abuja, non ha una faccia. Secondo te, senza un leader è destinata a fallire nel giro di pochi giorni, oppure invece questo può essere un punto di forza? L'abbiamo visto per esempio a Hong Kong, in parte. Sì, io credo che questo non sia necessariamente un fattore che possa motivare il fallimento della protesta. Ecco, io penso che per questo tipo di rivendicazioni e per come è strutturato appunto il movimento di protesta in Nigeria, questo non sia un grande gap in qualche modo. Penso anche ad esempio a quanto è accaduto in Sudan un anno e mezzo fa. Anche lì, certo, le proteste avevano una qualche forma di leadership, ma era soprattutto una leadership diffusa, diciamo così, non c'era un vero e proprio una struttura gerarchica e verticale. Eppure quelle proteste hanno avuto successo, anche se le dinamiche erano diverse, erano rivolte contro un dittatore in uno stato autoritario. In questo caso io penso che rispetto alle rivendicazioni dei manifestanti, l'assenza di una precisa leadership non sia necessariamente un elemento di debolezza, ecco. Chiarissimo, avete ascoltato la voce di Camillo Casola, puntuale, efficace come sempre. Camillo è analista di ISPI, Istituto Studi Politica Internazionale. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro, Camillo. Alla prossima. Ciao Gianpaolo, grazie a te. Il racconto di quest'oggi qui a Nessun Luogo Lontano volge quasi al termine. C'è tempo però per leggere e rispondere a alcuni dei tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. Qualcuno scrive: ma perché Boko Haram è mai stato in fase decadente? Sarebbe una bella notizia. E cita un libro di Domenico Quirico, Il Grande Califfato, che ne fa un ritratto allucinante. Questo Alessandro lo è stato in fase decadente, o quantomeno è stato in una fase molto più fulgida, anche territorialmente estesa di adesso. La mia ultima visita, diciamo, nigeriana, proprio nel territorio che una volta era controllato da Boko Haram, con ancora incursioni, quindi Maiduguri eccetera, vedeva già una forte influenza, una forte contrattacco da parte delle forze nigeriane e non solo. Quindi c'è stato un momento in cui Maiduguri era la capitale di un nuovo califfato, adesso non è più così. Qualcun altro che scrive: quindi data la crisi nigeriana arriveranno in Italia migliaia di rifugiati nigeriani? è una possibilità. La crisi economica potrebbe spingere molti nigeriani, come già sta accadendo, a tentare sorte diversa nel nostro paese. E poi c'è qualcun altro che fa una domanda interessantissima, ma dovremo dedicare, magari lo faremo, è un'intera puntata di Nessun Luogo Lontano, la mafia nigeriana in tutto questo come si comporta. Scrive sulla nostra pagina Facebook: come tutte le mafie, sono mafie intelligenti, sono criminali, non sono a dispetto di alcune narrazioni macchiette. Lavorano, continuano a lavorare, anzi tutte queste possono essere grandi opportunità anche per fare soldi. E ricordo che la mafia nigeriana lavora anche in Italia, anzi in maniera anche piuttosto invasiva. Poi c'è qualcuno che giustamente, ed è tra gli ascoltatori più attenti, la leadership sudanese era causa di ostracismo internazionale, fa riferimento a Omar al-Bashir, al fatto che il Sudan era nella lista nera. Peraltro, notizia battuta dall'ANSA poche ore fa, si sta mettendo d'accordo il governo di Khartoum, quello transitorio, con Washington per un risarcimento di centinaia di miliardi alle vittime degli attentati del 98 e del 2000, il che porterebbe sostanzialmente Donald Trump a togliere il Sudan dalla lista dei paesi terroristici. Comunque, dicevo, invece la leadership, l'ascoltatore, la leadership sudanese era ostracizzata a livello internazionale. Quella nigeriana fa affari con le major, sicuri che siano paragonabili per vulnerabilità alle piazze? Forse no, però se posso azzardare una sorta di comparazione, ho l'impressione che la società nigeriana abbia degli anticorpi anche a livello culturale e di diaspora molto forte, per esempio negli Stati Uniti o a Londra, che potrebbe di ritorno dare maggiore forza a quelle piazze che per adesso stiamo vedendo stanno cambiando slogan, sono sempre pacifiche, ma non è detto che sarà così. Mentre è detta una cosa, e questa è una certezza ormai da quando è iniziato la seconda stagione di Nessun Luogo Lontano, che qualcuno mi accompagnerà alla porta. You're fired. E io obbedisco ringraziando tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.